Avventurieri, avete scelto con saggezza. La lastra di metallo trasmetterà rapidamente il calore e farà evaporare la sfera di ghiaccio prima che vi colpisca.